prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ben ritrovati con lo spazio settimanale della Caritas che riprende dopo la pausa natalizia. In apertura ricordiamo il dato che è stato sottolineato proprio in questi giorni dal segretario generale della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Galantino, il dato che riguarda i fondi dell'8 per mille. I fondi che la Chiesa italiana prende appunto sono circa 1 miliardo di euro all'anno e, ha detto Monsignor Galantino, vengono restituiti 11 volte, cioè 11 miliardi di euro in servizi sociali. Uno studio appunto citato dal segretario della CEI, che ha sottolineato le tante iniziative finanziate dalla Chiesa tramite l'8 per mille, la Caritas, la consulta antiusura, ma anche le opere e gli interventi nei paesi più in difficoltà o dove i cristiani sono perseguitati. Tante iniziative dunque che vengono sostenute tramite l'8 per mille, ed è un dato numerico credo difficilmente confutabile. Poi si può discutere, lo si è fatto anche in quest'ultimo periodo, sulla ripartizione del fondo, su quali criteri applicare, se ne sono occupati anche degli organi giurisdizionali, organi costituzionali. Sta di fatto appunto che questo è quello che viene restituito: 1 miliardo di euro in cassa, si restituiscono 11 miliardi di euro in servizi sociali. Ci soffermiamo oggi su alcune righe di una lettera preghiera di una mamma che è stata pubblicata nel recente fascicolo della Caritas di Padova per l'Avvento. È un fascicolo molto ricco sul quale ci siamo appunto soffermati nel periodo di fine novembre, ma che vale la pena, pur essendo ormai passato il tempo di Natale, vale la pena riprendere. Scrive questa mamma nella sua lettera preghiera: caro Gesù, ieri io e mia figlia di 11 anni eravamo sedute ad aspettare in coda per un appuntamento, quelle code fastidiosissime in cui ti penti di non esserti portata qualcosa da leggere. Dato che niente si fa, inevitabilmente ci siamo trovate ad ascoltare le conversazioni di alcuni adulti che intrattenevano il tempo parlando del più e del meno, e subito l'argomento è ricaduto sulla situazione mondiale e italiana che stiamo vivendo, migranti ed extracomunitari. Mia figlia ha ascoltato in silenzio e quando siamo usciti ha cominciato a farmi molte domande, tanto che io e mio marito abbiamo deciso di cominciare una riflessione un po' tosta con lei e gli altri figli. La frase che mia figlia ha sentito di più è: non si può andare avanti così. La gente è infelice, delusa, frustrata, preoccupata per un futuro troppo incerto, specialmente per le nuove generazioni. Non si sente più protetta e tutelata. Il discorso più generale è che noi italiani siamo brava gente, lavoriamo, ci impegniamo, paghiamo le tasse, ma ci vediamo trattati peggio di questa gente che arriva nel nostro paese. Caro Gesù, non ti nascondo, io sono un po' d'accordo. Effettivamente spesso li vedo sulle panchine fermi tutto il giorno, profughi, migranti o, come si dice, richiedenti asilo. Da un certo punto di vista li capisco bene, perché anch'io vorrei fuggire ogni tanto, poter ricominciare in qualche posto dove si può pronunciare ancora la parola futuro. Però mi viene anche un nervoso che non ti dico quando li vedo fermi a far niente, giocherellare col cellulare tutto il giorno, quando penso che gli hanno arredato l'appartamento nuovo, che non pagano gas, elettricità, acqua, mangiano gratis. E io faccio i conti della serva e dico una sfilza di no ai miei figli per arrivare a fine mese. Poi leggo sui giornali che protestano e buttano via il cibo. Ma non è possibile, va bene perdonare, misericordia, amore fraterno, ma questo è un insulto. Come fai a perdonare un insulto? Tu l'hai fatto quando ti hanno sputato addosso sulla croce, ma forse perché sapevi che così avresti cambiato il mondo, mentre a me sembra che così ci prendono in giro. Che rabbia. Poi sento alcuni politici in TV che parlano di muri, di mandarli a casa, e quando non sono arrabbiata penso a mio nonno, che è partito a 27 anni per il Brasile, lasciando 4 figli e mia nonna a gestire tutto. È tornato dopo 7 anni, più di qualunque guerra, ma quel gruzzolo che aveva messo da parte ha permesso a 3 figli di studiare, arrivare all'università, cambiare vita. Mio papà era uno di loro. Ha potuto tutto questo perché le porte erano aperte, anche se ha sofferto come un cane, ne ha ingoiate di offese, nomignoli, pregiudizi, provocazioni. E allora dico che non ci capisco più. È giusto scappare dalla guerra, dalla miseria, è giusto poter avere un'altra opportunità, ma ho paura perché la coperta è piccola e se arrivano altre mani a tirarla si strappa. Poi è ovvio che se non hai altre strade alla fine finisci in quelle storte. Anch'io ho pensato qualche volta che non mi sorprenderei di rubare se non avessi altro modo di sfamare i miei figli. Quindi forse è tutta colpa loro, però alla fine arrivano i guai, e allora che facciamo? Perdoniamo perché non è colpa loro? Così non si realizza l'amore che dici tu, Gesù, ma l'inferno. Ecco, vedi, sono un po' impantanata. Siamo una famiglia con 4 figli, ci ha sempre contraddistinto un certo senso di fiducia nella vita, siamo cresciuti, abbiamo cercato di vivere, impostare la nostra famiglia sui valori cristiani, ma ammetto che spesso ci sentiamo vacillare, specialmente di fronte alle domande che i nostri figli ci pongono. In classe la nostra seconda figlia è un ragazzino africano arrivato da poco. Lei ha fatto di tutto per incoraggiarlo, aiutarlo, ma sembra che lui voglia rimanere emarginato. Si comporta in modo scontroso, aggressivo, quindi anche lei ha preso le distanze. È rimasta molto delusa per il fallimento dei suoi buoni propositi e sforzi per integrarlo. Il concetto di integrazione l'ha imparato in famiglia, negli ambienti educativi che frequenta, ma poi sulla sua pelle non ha trovato conferma. Allora ci chiediamo come conciliare tutti questi interrogativi che a volte sono così contraddittori. Che linea tenere con i nostri figli quando sappiamo benissimo che imparano sull'esempio e sulla realtà dei fatti? Non voglio generalizzare perché sicuramente della brava gente c'è, ma dov'è la linea che unisce tutti questi pensieri? Io non lo so. In famiglia ce la mettiamo tutta, ma a volte spero che i nostri figli sappiano sorprenderci proprio dove in questo momento noi adulti non vediamo soluzione e risposte. Aiutaci Gesù, non è facile. È il testo della lettera a preghiera di una mamma pubblicata appunto dalla Caritas di Padova nel fascicolo Aprire alla Misericordia per il passato tempo di Avvento. In questo fascicolo vengono segnalati anche alcuni strumenti multimediali come dei film e delle canzoni. Vi segnalo alcuni titoli di film. Partiamo dal padovano Andrea Segre, sono 3 i titoli segnalati. Io sono lì, Come un uomo sulla terra, Come il peso dell'acqua, o ancora Il villaggio di cartone di Ermanno Olmi, Welcome di Philippe Liorette e La mia classe di Daniele Gaglianone. Questi alcuni spunti appunto per magari approfondire e ragionare ancora su questo tema dell'accoglienza. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.